24, i gialli della storia. Era una delle tipiche giornate di quel periodo. Milano era invasa dallo smog, c'era molta nebbia, le luci erano accese tutta la giornata. I nostri clienti, che erano quasi tutti agricoltori della Bassa, affluivano in Piazza Fontana perché tutti i venerdì la Banca Nazionale dell'Agricoltura non chiudeva alle 4, ma lasciava il suo salone aperto per consentire a questi agricoltori di svolgere le contrattazioni. Quel giorno alle 16.30 avevo appena finito di spezzare un contratto quando fui chiamato da un collega, disse ai due anziani agricoltori: aspettatemi qui, poi vengo giù, andiamo a prendere un caffè insieme. E quando arrivai in questa saletta mi appoggiai con le spalle al vetro. Io ho sentito un gran botto, un boato tremendo, e poi la sensazione del buio. Vidi una cosa tremenda, c'erano ancora pezzi di corpi martoriati, c'erano tanti feriti, c'erano ancora delle fiammelle. Ho visto un cliente che conoscevo che mi si è aggrappato ai pantaloni e che strisciava per terra in un lago di sangue. Aveva una gamba spezzata, mi sono messo a piangere, volevo andar via, questo mi teneva per le braccia e mi ha detto: no, stai qui, aiutami. E venerdì 12 dicembre del 69 alle 16.37 una bomba collocata nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura provoca 17 morti e 80 feriti. È la madre di tutte le stragi, l'inizio degli anni di piombo in Italia. Contemporaneamente, in quel pomeriggio, altre tre bombe scoppiano a Roma, un'altra viene ritrovata a Milano, alla banca commerciale di Piazza della Scala. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia non ha mai conosciuto una violenza simile. E noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare questa storia e i suoi incredibili sviluppi che coinvolgeranno servizi segreti, gruppi politici di estrema destra, anarchici e frange dello Stato. E in questo racconto ascolteremo le testimonianze dell'avvocato Guido Calvi, che difendeva Valpreda, e il magistrato Gherardo D'Ambrosio. Milano, 15 dicembre 1969. In una piazza Duomo gremita si svolgono i funerali delle vittime. Abbiamo istintivamente rifiutato l'abbraccio di rumor, perché istintivamente abbiamo capito che c'era qualcosa che non funzionava, che non poteva essere che tu entri in una banca tutti i venerdì della tua vita da adulto per effettuare il tuo lavoro e una volta all'improvviso esci in una bara. E poi ho visto dentro la chiesa i volti impietriti dei maggiori esponenti del governo. Hanno promesso tutti che sarebbe stata fatta giustizia. E noi, io in particolare, gli ho creduto. Milano, 12 marzo 2004. Si conclude l'ultimo processo per la strage di Piazza Fontana. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise d'Appello di Milano assolve Maggi e Zordi dall'imputazione loro scritta per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. E questa assoluzione per Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi, neofascisti di Ordine Nuovo nel Veneto, verrà confermata anche dalla Cassazione. Zorzi e Maggi dunque vengono assolti in via definitiva, come negli anni sono stati assolti in via definitiva anche tutti gli altri imputati per questa strage, a cominciare dai neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura e dall'agente del SID Guido Giannettini. La strage di Piazza Fontana, insomma, rimane un mistero senza colpevoli, ma quella sulle bombe del dicembre del 69 è un'inchiesta senza fine, fatta di depistaggi, di clamorosi errori giudiziari, di trame oscure, di inconfessabili segreti di Stato. Ma soprattutto è un'indagine che parte da subito con il piede sbagliato. Per gli inquirenti, infatti, i colpevoli vanno cercati tra gli anarchici. Le prime dichiarazioni che furono fatte dalla polizie e dal ministro degli interni era: stiamo indagando a 360 gradi. Le nostre indagini sono rivolte in tutte le direzioni. Non era assolutamente vero. Le indagini furono immediatamente indirizzate verso il mondo degli anarchici. Indagini e interrogatori continuano senza soste. 150 persone sono state fermate a Milano e 10 a Roma. Il 15 dicembre è la giornata chiave, decisiva. Avviene di tutto. La polizia di Roma, che è alla caccia degli anarchici, per gli attentati di Roma, manda un poliziotto a cercare Valpreda a Milano. Attenzione, per Roma. A questo punto però viene preso anche Pinelli. Giuseppe Pinelli questa notte veniva interrogato in una stanza al quarto piano del Palazzo della Questura. Secondo me la strategia prevedeva che Pinelli fosse in qualche modo il colpevole di Milano. Ma Pinelli muore. Durante una breve sosta dell'interrogatorio si è gettato nel vuoto da una finestra rimasta socchiusa. Dopo quasi 6 anni, l'indagine sulla morte di Giuseppe Pinelli affermerà che l'anarchico non si è ucciso. Pinelli sarebbe invece precipitato dalla finestra dopo aver avuto quello che viene definito un malore attivo. E a questo punto manca il soggetto principale di questa strategia. Valpreda, che era stato ricercato per Roma, improvvisamente diventa responsabile della strage di Piazza Fontana. Un uomo è stato denunciato per gli attentati di Milano e Roma. Si chiama Pietro Valpreda. La denuncia è stata fatta dopo un confronto diretto avvenuto al Palazzo di Giustizia di Roma tra lo stesso indiziato e un tassista milanese. Il tassista testimone ha raccontato di avere accompagnato venerdì pomeriggio alla Banca Nazionale dell'Agricoltura un giovane che aveva una valigetta nera. Prima che inizi il confronto, chiese se gli avevano mostrato fotografie, se aveva visto Valpreda prima, eccetera. E Rolandi negò. Io sapevo invece che c'era questa cosa, ho insistito. Per 3 volte alla fine mi arrabbiai, dissi no, lei deve dirlo altrimenti. E Rolandi a questo punto si girò verso di me e disse: sì, è vero, mi hanno mostrato una fotografia e mi hanno detto che era quella che dovevo riconoscere. Poi ci fu il confronto, lo indicò. Valpreda disse: ma chi io? Sì, lui, insomma. Ma mai guardato bene. E lui è rimasto un po' lì, fa: beh, se non è lui, chi gliene ho? E allora l'avvocato Calvi è intervenuto, fa: mettiamo verbale quello che dice. Cioè, se, il test, se non è lui, qui non c'è. Qui non c'è, e al termine dell'interrogatorio noi le contestiamo 14 morti e 120 feriti. Per tutti il mostro è Pietro Valpreda, 37 anni, ballerino, membro del circolo anarchico romano, 22 marzo. Valpreda verrà rinviato a giudizio per strage insieme a Roberto Gargamelli, Mario Merlino e altri membri del gruppo anarchico. Saranno tutti assolti in via definitiva. Ma perché allora gli inquirenti hanno puntato su di loro? Chi sono davvero questi anarchici del gruppo 22 marzo? Un piccolo gruppo, senza nome, senza darci proprio una struttura omogenea, ma insomma sapendo che eravamo quelle 10, 12, 15 persone. Poi però questo gruppo, che era così piccolo, c'era Mario Merlino, che era un uomo di estrema destra. È entrato dichiarando apertamente di essere stato fascista, però era attratto dai movimenti, dalle cose, da quello che succedeva, dagli anarchici. E poi c'erano altri due. Uno, Ippoliti, era un poliziotto che si era infiltrato. L'altro, Serpieri, che era un uomo dei servizi segreti. Ma intanto, mentre l'opinione pubblica si divide sull'innocenza di Valpreda e degli altri anarchici e sulla strage di Piazza Fontana, inizia a montare la polemica. Dall'inchiesta arriva un primo clamoroso colpo di scena. Treviso. Pochi giorni dopo la strage, Guido Lorenzon, professore di liceo, si presenta in procura. Ai magistrati dichiara di aver ricevuto delle confidenze sulla strage da parte del suo amico d'infanzia, Giovanni Ventura. Lui disse: se nessuno si dovesse muovere, occorrerà fare qualche cos'altro. Giovanni Ventura, 25 anni, editore di Treviso. Secondo Lorenzon, farebbe parte di un'organizzazione terroristica di estrema destra, responsabile degli attentati del 12 dicembre. A capo dell'organizzazione ci sarebbe Franco Freda, 28 anni, avvocato di Padova. Oltre agli anarchici, insomma, nell'inchiesta su Piazza Fontana entrano in scena anche i veneti Franco Freda e Giovanni Ventura, neofascisti vicini a Ordine Nuovo. Ma le accuse di Lorenzoni ovviamente non possono bastare. Allora i magistrati si mettono subito al lavoro a caccia di riscontri. Il primo riscontro alle dichiarazioni di Lorenzon sono le armi trovate nella soffitta di una casa vicino Treviso. Il proprietario, infatti, afferma che l'arsenale è di proprietà di Giovanni Ventura. Ma anche che Ventura aveva dell'esplosivo che purtroppo venne fatto esplodere immediatamente perché era un esplosivo estremamente pericoloso. Il secondo riscontro è un pezzo di timer usato in una delle bombe collocate a Roma il 12 dicembre. Secondo i magistrati sarebbe uguale ad alcuni timer che Franco Freda avrebbe acquistato poco prima della strage. Quel gruppo di timer che era stato venduto dall'Elettrocontrol di Bologna a Freda e di cui risultava la fattura fatta a Freda. Il terzo riscontro arriva da una rivelazione di un coimputato che dichiara che nell'aprile 1969 il gruppo si sarebbe riunito a Padova. Alla riunione avrebbe partecipato anche un importante uomo venuto da Roma. Secondo i magistrati sarebbe Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo. Si presentarono immediatamente a deporre in suo favore il direttore del Tempo, che era Gianni Letta, insomma, e altri quattro giornalisti che deposero che quella notte invece Pino Rauti era a Roma. Il quarto riscontro sono le borse tedesche, nere e marroni, con cui è stato trasportato l'esplosivo. I magistrati scoprono che in Italia i negozi che le vendono sono solo 36. L'unico negozio che aveva venduto, e addirittura due giorni prima degli attentati, borse nere e borse marroni, era quello di Padova. Con racconto gli avvenimenti legati alla strage di Piazza Fontana riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 68. Il primo a essere accusato è Pietro Valpreda, anarchico del gruppo 22 marzo, ma dopo pochi giorni, grazie a una testimonianza di Guido Lorenzon, si comincia a seguire la pista legata all'estrema destra e su questa si trovano alcuni riscontri che coinvolgerebbero direttamente Franco Freda e Giovanni Ventura, anche in altri 22 attentati dinamitardi. Ventura, a sorpresa, comincia a confessare, anche se nega il suo coinvolgimento rispetto alla strage di Piazza Fontana. Franco Freda, invece, continua a negare il suo coinvolgimento. Che cosa ci vuole o ci può dire dell'attentato del 25 aprile 1969? Di questo attentato io non so nulla. E degli attentati a treni? Che lessi sulla stampa, con abbondanza di particolari, questo avvenimento. Ma Ventura lo accusa di tali attentati? Non mi pare, o sì. Tra le tante dichiarazioni di Ventura non è escluso che abbia anche fatto questa dichiarazione accusatoria verso di me. Ma dei riferimenti, no? Non è che ci fa... Ah, le sue allusioni. Dove e con chi ha trascorso la giornata del 12 dicembre 1969? È veramente nuova ed originale questa domanda. Ma guardi che il giudice istruttore nei miei confronti mi formulava la categoria dell'organizzatore, non dell'esecutore. Voglio dire, non è mai stato posto in discussione in questione. Ma lasci stare quello che ha pensato, quello che ha fatto il giudice D'Ambrosio. Ma Ventura rivela anche il tentativo di far cadere la colpa di quegli attentati sulla sinistra extraparlamentare. Il 18 marzo del 74 anche Franco Freda e Giovanni Ventura vengono rinviati a giudizio insieme agli anarchici per la strage di Piazza Fontana. L'indagine comunque riserva ancora molte sorprese. Tutto parte dall'agenda sequestrata a Giovanni Ventura. Nell'agendina troviamo un guido con un numero di telefono. Attraverso il numero di telefono risalimmo al titolare, che era Guido Giannettini. Guido Giannettini, 39 anni, giornalista. Dalla magistratura è sospettato di avere stretti rapporti con la cellula di Freda e Ventura. Andammo a perquisire e trovammo la sua casa strapiena di rapporti. In casa di Giannettini vengono trovati dei rapporti informativi. Secondo i giudici di Milano, sarebbero serviti a Freda e Ventura per infiltrarsi nei gruppi di sinistra. Che erano rapporti fatti ad hoc per creare allarme nella sinistra e per indurli a schierarsi insieme anche loro contro lo Stato. Guido Giannettini avrebbe scritto i rapporti usati da Franco Freda e Ventura per infiltrarsi nell'estrema sinistra e per spingerla a compiere degli attentati. Dunque, secondo i magistrati, un ruolo preciso e organico al progetto eversivo. E infatti Guido Giannettini, che nel frattempo è fuggito all'estero, viene rinviato a giudizio per concorso in strage. Ma studiando con attenzione quei documenti, gli inquirenti hanno un dubbio. Quei documenti sono troppo precisi, assomigliano troppo a un rapporto dei servizi segreti. Mandammo i rapporti al SID per fargli vedere, per dire: guardate, questi sembrano rapporti di un servizio segreto straniero, vedete se vi possono interessare. Il SID non fece una piega, tant'è vero che poi io richiese al capo del SID di conoscere se Guido Giannettini era un loro agente. 12 luglio 1973. Il SID risponde ai magistrati milanesi. Le notizie su Giannettini sono da considerarsi segreto e non possono essere rese note. Il generale Miceli disse chiaramente che loro non avrebbero mai eccepito il segreto politico e militare se non avessero avuto copertura politica. Il ministro Tanassi mi ha detto che era d'accordo con la presidenza e che io quindi potevo rispondere al giudice D'Ambrosio nei termini già detti qui. Allora. Dunque, un giallo nel giallo. Ma è vero, come dice Vito Miceli, che la decisione di apporre il segreto militare su Giannettini sarebbe stata presa dai vertici politici dell'epoca? E soprattutto, chi è Guido Giannettini? I giudici naturalmente vogliono vederci chiara, vogliono capire chi ha deciso di coprire Giannettini e perché. E quando il processo arriva finalmente in aula, a Catanzaro succede qualcosa di assolutamente inedito nella storia della Repubblica. In aula infatti sfilano politici e ministri, a cominciare da chi a sorpresa ha rivelato la vera identità di Guido Giannettini. 12 giugno 1974. In un'intervista al giornalista Massimo Caprara, Giulio Andreotti, nel frattempo diventato ministro della difesa, rivela che Giannettini è un informatore del SID e che la decisione di apporre il segreto militare è stata presa in una riunione a Palazzo Chigi. 8 agosto 1974. A meno di 2 mesi dall'intervista di Andreotti, Giannettini, ormai privo della copertura dei servizi, si costituisce. Si costituì perché aveva paura di essere ucciso. Io mi ero trovato al centro di una questione molto più grande di me. Quindi c'era anche la possibilità che mi accadesse qualcosa. Fece capire che era disposto a parlare e secondo me fu un avviso bello e buono. E la domenica ci venne notificata l'ordinanza con cui ci veniva tolto il processo. Anche il processo a carico di Giannettini, come già quello contro Freda, Ventura e gli anarchici, viene spostato a Catanzaro. E nel processo di Catanzaro viene giudicato anche Gianadelio Maletti, il capo del reparto D del SID, l'ufficiale che insieme al capitano Labruna avrebbe fatto fuggire Giannettini all'estero. Ma intanto per le vittime, per i loro familiari, è il tempo dei processi con la speranza di arrivare finalmente alla verità. 18 gennaio 1977. Dopo il trasferimento di tutti i tronconi dell'inchiesta a Catanzaro e dopo 8 anni dalla strage, ha inizio il processo per Piazza Fontana. Sul banco degli imputati si ritrovano tutti insieme, anarchici, neofascisti e uomini dei servizi segreti. Noi pensavamo che Roma, Milano fossero i luoghi dove avremmo potuto esercitare in modo migliore i nostri diritti di difesa, e invece Catanzaro, che sembrava una sorta di confino dove erano stati relegati, si è rivelata invece un luogo dove c'erano magistrati che ebbero un coraggio straordinario. 23 febbraio 1979 si conclude il processo di Catanzaro. La Corte d'Assise di Catanzaro dichiara Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido colpevoli del delitto di strage continuata. Assolve Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele dai reati loro ascritti. Nel 1985, dopo altri 6 anni, 2 processi d'appello e 1 sentenza della Cassazione, il processo per la strage di Piazza Fontana arriva alla fine. Eravamo tranquilli che le prove che avevano portato all'ergastolo nella sentenza della Corte d'Assise non potessero cambiare immagine, non diventare più tali. Assolti per insufficienza di prove i quattro imputati principali, i neofascisti Franco Freda, Giovanni Ventura, Mario Merlino e l'anarchico Pietro Valpreda. Tutti i testimoni sono ritenuti inattendibili, i riscontri insufficienti. Sì, sì, resta sempre come attoniti, è sempre come se i tuoi, tuo padre, il padre degli altri, venissero continuamente massacrati. Con l'assoluzione di tutti gli imputati in Cassazione tutto sembra finito, ma non è così. Continuiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24. I gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia della strage di Piazza Fontana. Dopo anni di processi, tutti gli imputati vengono assolti e la strage sembra essere destinata a rimanere senza colpevoli e mandanti. Ma l'inchiesta non è ancora finita. A Milano, seguendo un'altra indagine, il giudice istruttore Guido Salvini trova nuovi elementi. L'indagine punta ancora sul neofascismo veneto e punta su tre nuovi nomi: Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. E l'indagine di Salvini può contare su un'altra testimonianza che viene da quel mondo, quella di Vincenzo Vinciguerra, membro di Ordine Nuovo e condannato all'ergastolo per la strage di Peteano. Ascoltiamo la sua testimonianza, oltre alle dichiarazioni del giudice Salvini e Federico Sinicato, avvocato di parte civile. Io credo che Ordine Nuovo sia una perfetta diversione strategica. Sotto la facciata nazista si nascondeva qualcosa che dico nazismo o col fascismo, non ho niente a che vedere. Negli anni 70, Vincenzo Vinciguerra si allontana da Ordine Nuovo, colpevole ai suoi occhi di aver tradito gli ideali rivoluzionari del fascismo in cambio di un'alleanza con lo Stato. Potevano ispirarsi sul piano storico, al passato regime, ma si ritenevano impegnati nell'attualità a difendere questo Stato anticomunista. Una parte della destra che, pur di arrivare, pur di raggiungere l'obiettivo della lotta al comunismo, comunque del capovolgimento delle forme democratiche, si mette a disposizione delle istituzioni. Vinciguerra dice: ci hanno usato per i loro scopi. Tutto quello che posso dire perché loro, cioè le istituzioni, ne venga accertata la responsabilità, lo dico. Proprio per il loro presunto legame con le istituzioni, Vinciguerra critica molti dei suoi ex camerati. Personaggi che hanno appunto tutti quanti una caratteristica in comune: essere legati ai corpi dello Stato, essere legati allo Stato italiano, al di là delle etichette e della rappresentazione che si sono fatti e ne è stato fatto. Attraverso il legame tra destra e istituzioni, Vinciguerra racconta la sua verità sulla strage di Piazza Fontana. La definizione di strage di Stato per Piazza Fontana mi pare che sia più che adeguata. Non esiste un uomo che ha confessato la sua partecipazione a una strage, a un massacro di civili. Dunque, dietro la strage di Piazza Fontana ci sarebbero anche rapporti inconfessabili tra i neofascisti di Ordine Nuovo e spezzoni delle istituzioni. Ma quanto è credibile Vincenzo Vinciguerra? Quali sono le prove di questo rapporto tra i servizi segreti e i terroristi? Roma, 2 novembre 1996. Sulla via Appia viene scoperto un archivio segreto dei servizi di sicurezza. Vengono ritrovate quintali di carta, tra cui intere annate di veline cosiddette dei servizi. Sono una fotografia momento per momento di come appunto i servizi monitoravano, tenevano sotto controllo certi ambienti. Una struttura informativa parallela all'interno del Viminale. Squadre operative composte da agenti di polizia e da civili, infiltrati in gruppi terroristi e sovversivi. C'erano il SID, che era il servizio segreto militare che dipendeva dal Ministero della Difesa, e l'affari riservati, che era il servizio civile che dipendeva dal Ministero dell'Interno. Entrambi furono presenti nella strategia con funzioni diverse. Raccoglievano informazioni che non diventavano rapporti all'autorità giudiziaria, ma venivano spedite a Roma, dove i dati erano riveduti e corretti se necessario. Dopo, solo dopo, venivano rispediti agli uffici periferici e inoltrati alle procure. È un falso linguistico quello di dire i servizi deviati, perché i servizi non erano deviati, i servizi nella maggior parte dei casi avevano degli obiettivi ben precisi e li perseguivano in modo diretto. Per 30 anni sono stati la fonte esclusiva delle notizie degli atti di terrorismo e delle stragi. Il centro era l'ufficio affari riservati, o meglio, il suo direttore Federico Umberto D'Amato. I magistrati sanno quello che D'Amato riteneva opportuno far sapere. Scriveva chiaramente nelle relazioni che trovammo in un deposito: l'importante è creare dei gruppi di sinistra finti, portarci dentro delle persone che sanno usare le armi d'esplosivo, in pratica spingere a fare azioni che alla fine saranno loro danno. In caso di stragi o grandi eventi, era la squadra centrale che si recava sul posto e assumeva la direzione delle indagini. Quindi l'ufficio affari riservati è quello che prepara e dirige lo spostamento solo verso gli anarchici delle indagini. Quindi agisce prima. Per la strage di Piazza Fontana del 1969, ad esempio, la pista anarchica nacque all'interno della squadra operante a Milano dell'ufficio affari riservati. L'autore della strage doveva essere l'anarchico Pietro Valpreda, un colpevole fabbricato a tavolino. Probabilmente il SID è quello che agisce dopo, in modo da far fallire le indagini. C'era certamente una collusione e una compenetrazione tra informazioni che ricevevano i carabinieri e che in alcuni casi venivano chiaramente trasmesse per evitare... Ma quali gruppi eversivi erano più in contatto con gli apparati? Io direi che Ordine Nuovo era in frequente contatto, un normale contatto con loro. A che disegno obbediva fino al 74 la provocazione contro la sinistra? Questo è un discorso che bisognerebbe fare a più alto livello, non c'è dubbio. Non lo potrei chiamare strategia, dei colpi di spillo della tensione, attivismo anticomunista soprattutto, che andava ad investire anche i giudici, per esempio, i quali giudici erano d'accordo in buona parte di sinistra, ma contro i quali c'era una profonda diffidenza. Una strategia dei colpi di spillo, la definisce Gianna Deglio Maletti, ex numero 2 del SID, latitante in Sudafrica. Dunque, da una parte il tentativo di creare confusione e depistare le indagini dei magistrati, dall'altra un progetto stragista con un obiettivo preciso. Questo, secondo quanto afferma Vincenzo Vinciguerra, l'obiettivo di questa strategia. L'Italia era nel disordine. Il 12 dicembre del 69 l'avrebbero riportata nell'ordine. La strage di Piazza Fontana doveva essere il momento di detonazione o di un colpo di Stato o della dichiarazione dello stato di emergenza. Non era la strage che doveva far proclamare, far scattare lo stato di emergenza, era la manifestazione organizzata con tutta la società italiana. Secondo Vinciguerra, due giorni dopo la strage, il 14 dicembre a Roma, ci sarebbe dovuta essere una grande manifestazione dell'MSI. A cui dovevano partecipare, e lui ci andò, tutti i militanti dell'estrema destra, in quanto in quel momento, con una presenza così massiccia di piazza, che doveva protestare contro le bombe comuniste, probabilmente avrebbero dovuto scoppiare incidenti. Qualcuno sparerà sulla manifestazione, ci saranno dei morti e di conseguenza tutti gli altri andranno poi a cercarsi le comuniste. A quel punto, per evitare un massacro, interverranno carabinieri e forze dell'esercito. poi qualcosa si bloccò, la manifestazione fu vietata, i gravissimi incidenti non ci furono e in un certo senso l'operazione di Piazza Fontana, come ci racconta Vinci Guerra, fallì. L'operazione fallisce nelle piazze, ma anche nei palazzi del potere, dove ci sarebbe stato uno scontro durissimo tra il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, e Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri del governo Rumor. Con Moro che torna da Parigi, sconvolto da quello che ha preso, ci sono dialoghi con Saragat, sembra molto anche riservati, e sembra che in qualche modo, grazie anche all'opera dell'onorevole Moro, viene scongiurato uno slittamento a destra, una dichiarazione di stato di emergenza. Sarebbe stato il presidente del Consiglio Mariano Rumor a risolvere la situazione, schierandosi con Moro e rifiutandosi di proclamare lo stato di emergenza. Sappiamo però che l'obiettivo dopo è diventato Moro. E successivamente è diventato Rumor che allora era presidente del Consiglio. Ed è per questo che Ordine Nuovo ha la volontà di colpire Rumor, che aveva, diciamo, fatto fallire uno degli obiettivi politici finali di quei giorni. In fondo a me nel 71 venivano anche di me di ammazzare la Rumor. Viene proposto a Vinci Guerra dagli otto ordinovisti di Venezia, tra l'altro lui cita Maggi, che era il capo dei veneziani, di colpire Rumor nella sua villa, disattivando la scorta che anzi avrebbe lasciato fare, uccidendolo per vendetta. Vinci Guerra, che è un uomo puro dal suo punto di vista, non accetta un'operazione di questo tipo. A seguito della proposta di attentato Rumor, scopro che sono collegati con i vertici, evidentemente la polizia, crolla definitivamente il mito degli ordini nuovi rivoluzionari. Secondo Vinci Guerra, sarebbe proprio il rifiuto di Rumor il movente dell'attentato avvenuto alla questura di Milano il 17 maggio 1973. L'autore è un sedicente anarchico, Gianfranco Bertoli, che indagini collegate le mie evidenze come fosse legato agli ordinovisti veneti. Per cui si chiude, almeno dal punto di vista della ricostruzione politica, il cerchio di quegli anni. Carlo Maria Maggi verrà assolto in via definitiva dall'accusa di essere il mandante della bomba alla questura di Milano che il 17 maggio del 73 provoca 4 morti e 17 feriti. Secondo quella stessa sentenza, tuttavia, l'esecutore materiale di quella strage, Gianfranco Bertoli, non sarebbe un anarchico individualista come dice di essere, ma un informatore dei servizi segreti, legato ai neofascisti di Ordine Nuovo. Ma intanto l'ultimo atto della nuova istruttoria su Piazza Fontana, quella del giudice Salvini, arriva al cuore della strategia della tensione. Al centro di questa strategia i nuclei di difesa dello Stato. Una struttura composta da militanti dell'estrema destra e militari di sicura fede anticomunista. Di questa struttura, fino al 74, ha fatto parte anche Roberto Cavallaro. Una struttura che apparteneva comunque alla forma istituzionale, che aveva ben identificato lo scopo di mantenere una sicurezza. Potevano verificarsi situazioni che non andavano bene al potere, che aveva necessità di mettere in atto un colpo dello Stato per rafforzare se stesso. Destabilizzare per stabilizzare, teorizzavano. Le bombe e le stragi dunque per sollecitare governi forti, autoritari o i progetti di golpe. Secondo i magistrati, i nuclei di difesa dello Stato sarebbero stati attivi nelle caserme italiane dal 1966 al 1974. Una sorta di gladio superclandestina organizzata in 36 legioni in Italia. Sono la struttura che poteva essere l'appoggio per quella svolta autoritaria che le bombe e gli attentati auspicavano. Armata e coordinata da ufficiali dell'esercito e uomini dei servizi segreti. Nella prima metà degli anni 70, Roberto Cavallaro lavora per il SID. Ma all'interno dell'organizzazione il suo compito è di tenere i contatti con gli ufficiali presenti nelle basi NATO del Veneto. C'era la richiesta di capire se vi era la sensibilità da parte di militari a soluzioni diverse a quelle democratiche, il terreno non è che fosse così arido, credo il terreno fosse più fertile di quanto si può immaginare, insomma. L'organizzazione userebbe civili dell'estrema destra a cui poter addebitare la responsabilità degli attentati. C'erano gruppi più o meno organizzati, se vado all'Ordine Nuovo, per esempio, che dava sicuramente delle garanzie maggiori rispetto ad altri gruppi che venivano costituiti sulla base della necessità. Non era difficile organizzare un gruppo di 20-30 persone, ideologizzarle, mandarle un po' allo sbaraglio. Ordine Nuovo era chiarissimo che non poteva prendere il potere, però era convinto che potesse spostare una parte del mondo militare su una scelta di lotta dura al comunismo. Cavallaro, che pure non collega direttamente la strage di Piazza Fontana ai nuclei di difesa dello Stato, conferma tuttavia il ruolo eversivo della struttura. Il sistema era molto semplice, utilizzare questi per creare delle turbulenze atte a legittimare sostanzialmente un intervento, se vogliamo, di natura pacificatrice sociale. Questo fa capire come tra la prospettiva golpista o semigolpista e le bombe ci fosse una intersezione reciproca. Le bombe si mettevano affinché militari e politici si muovessero. Uno scenario inquietante che vedrebbe coinvolti a diversi livelli di responsabilità terroristi, apparati dello Stato, servizi segreti e militari. Uno scenario che ha un contesto preciso. Quella guerra fredda che negli anni 60 tocca il suo apice e che Mosca e Washington combattono con ogni mezzo e spesso in ogni paese. Ma tenga presente che gli americani hanno organizzato o tollerato i colpi di Stato in Cina e in Grecia e che l'Italia sarebbe stato un buon terzo. Gli americani non ordinano o organizzano gli attentati, però apprendono dagli ordinavisti quali sono i loro intenti, quali sono le azioni che intendono fare e danno anche qualche consiglio di tipo pratico, guardano queste azioni anticomuniste con un occhio benevolo. Il nostro paese era nelle mani degli americani. È stato per anni paese a sovranità limitata. Ora questa sovranità limitata, che era ben nota agli americani perché era di loro gestione, non può non aver indotto personaggi come Nixon o come altri della sua stessa formazione politica a pensare, beh, facciamo qualcosa che in Italia ci assicuri il controllo del paese senza più timori di slittamenti fuori dalla NATO e così via. A loro interessava l'Italia come paese, come disponibilità di basi. Quanto poi aiutassero, forse parecchio, e quanto in realtà limitassero i danni, forse poco, rientrava, ritengo, ma a ragion veduta di ritenere e per logica dedotta, che fosse sicuramente interesse loro. Secondo Cavallaro e Maletti, l'esplosivo utilizzato per gli attentati proverrebbe dai depositi di armi di alcune strutture filoatlantiche presenti in Europa. La natura materiale esplodente di Piazza Fontana, non lo so, io posso dire che vi era disponibilità, di grande disponibilità di munizionamenti e anche di armamenti. Probabile che il materiale esplosivo sia venuto da fuori, dalla Germania. Che vi fosse sovrabbondanza di materiale, questo sì, che fosse fornito dalle vie ufficiali, in gran parte sì, che le autorità ne fossero consapevoli, certamente sì, l'utilizzo di questo che ne fosse fatto era nell'ipotesi preventivabile, sicuramente sì, che ne sia stato fatto uso, ben poco direi, in rapporto alla quantità. Se avessimo dovuto far brillare tutto quello che c'era di materiale, probabilmente sarebbe stato un fuoco pirotecnico che durava gli anni. Ho parlato di possibilità di elementi di servizi informativi americani, tra i quali gli elementi di estrema destra non mancavano. È una costellazione quella informativa militare americana. Sono svariati servizi e svariati livelli. di servizio, come ci sono in qualunque altro paese. Più di così non dico e non posso dire. Di più non dice e non può dire Giannadelio Maletti. Un'ambiguità che copre forse verità terribili sul coinvolgimento di apparati dello Stato nella strategia della tensione e nella bomba di Piazza Fontana. Ma ancora non basta. Il 7 settembre del 2000, sentito dai magistrati di Milano, Paolo Emilio Taviani, che nel dicembre del 69 era vicepresidente del Consiglio, fa una clamorosa rivelazione. Da Fiumicino stava per partire la sera del 12 dicembre 1969 l'avvocato Fusco, defunto negli anni Ottanta. Aveva frequenti legami con i dirigenti del SID. Suo compito era recare il contrordine sugli attentati previsti a Milano. A Fiumicino seppe dalla radio che una bomba era scoppiata a Milano. Rientrò a Roma. Telefonò subito alla figlia Anna Maria per dirle che si sarebbe tenuto quel gravissimo cruccio per tutta la vita. Ciò vuol dire che lo Stato, ai suoi massimi livelli, cioè da Roma, sapeva benissimo cosa stava avvenendo e chi si stava muovendo quel giorno. E quello che più indigna ancora oggi è che dall'interno delle istituzioni non arrivino segnali. Il che significa che è tale l'omertà che ancora deve esserci su che cosa veramente avvenne nel 69, quali forze veramente si mossero nel 69, tale ancora l'omertà da non averci dire tutto. Direi che questa testimonianza dei Taviani ci dà la conferma che quel giorno fu anche strage di Stato. La difesa delle istituzioni, viste anche attraverso la provocazione per rafforzare se stessa, è una cosa che tutto sommato non può scandalizzare, perché lo Stato tenta a salvare se stesso con tutti i mezzi. E lei si immagini se in un progetto di questo genere la morte di 13 persone può essere in qualche modo importante. Purtroppo bisogna essere cinici. La politica è cinica, lo Stato è cinico. In quell'epoca non solo era cinico, ma era anche barbaro e lo ha dimostrato in molti versi. Il Paese ha diritto di sapere che cosa è successo in quel periodo particolare della nostra storia, quali sono i rischi che il nostro Paese ha corso. Qual è il significato vero di quel muro umano che il 15 dicembre del 69 si eresse contro il tentativo di ricacciare indietro il paese? Nel 1982 Franco Freda e Giovanni Ventura sono stati condannati a 15 anni per associazione sovversiva e per altri attentati avvenuti nel 1969. Per la strage di Piazza Fontana sono stati assolti per insufficienza di prove in via definitiva nel 1987. Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni sono stati assolti in via definitiva dal reato di strage nel 2005. Nelle motivazioni della stessa sentenza d'appello del 2004 che ha assolto Zorzi, Maggi e Rognoni, poi confermata dalla Cassazione nel 2005, si legge tra l'altro: la Corte ha ritenuto di dover condividere l'approdo a cui la Corte d'Assise di Milano è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda e Ventura per i fatti del 12 dicembre 1969.